Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Una volta tanto con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre non parliamo di soldi, ma parliamo di argomenti attinenti il nostro essere consumatori, in questo caso consumatori di alimenti, perché bisogna sempre stare attenti a tante cose. La data di scadenza è la prima cosa, poi gli ingredienti eccetera eccetera. Ebbene, l'Adico ha lanciato una campagna che si chiama SOS Sicurezza Alimentare. Ne parliamo ovviamente col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, una campagna vera e propria, un SOS, come dicevo bisogna stare attenti a tante cose, non solo a quelli che si comprano, ma anche a quando si va a mangiare nei ristoranti, insomma, dove il cibo viene preparato. Sì, allora si è sempre parlato di etichette, si è sempre parlato di contraffazione, si è sempre parlato di provenienza, di origine, di conservazione, però non si è mai parlato di cosa si può e quali sono i diritti fare quando un consumatore rimane coinvolto in un'intossicazione alimentare, magari per effetto di aver mangiato un pasto avariato in un ristorante, oppure rompersi un dente nel caso che magari abbia trovato dentro una confezione, uno yogurt o un cioccolatino, un oggetto, oppure cosa fare qualora che magari uno porta a casa una confezione, l'apre e trova che magari dentro ci sono i vermi o trova la muffa e quindi il prodotto in questo caso è difettato rispetto a quello che dovrebbe essere l'origine e la garanzia che questo dovrebbe avere nel momento, insomma, in cui uno lo compra. Casi certamente rari, però ci sono, perché ogni tanto li leggiamo sui giornali. Voi fate riferimento innanzitutto al codice del consumo, che è un codice che ha valore nazionale. Allora, proprio perché vogliamo trattare questo tipo di problemi qua, l'Adico ha deciso di promuovere l'iniziativa SOS Sicurezza Alimentare, che come ho detto è proprio una campagna per assistere i cittadini alle prese con questo tipo di problemi. Ecco, dobbiamo sapere una cosa, Mirko, che il codice consumo, per esempio, cosa prevede? Che nel caso una persona compri un prodotto e questo prodotto quando lo porta a casa troviamo dentro la mala sorpresa, stabilisce che il venditore, quindi il negoziante in questo caso, è responsabile. Pertanto la persona che ha trovato il prodotto difettato prende la confezione, va dal ristorante e ha diritto ad avere o a ricevere i soldi indietro o almeno un buono sconto di spesa per l'importo del valore del prodotto. Questo è il primo caso ed è anche un caso molto comune, perché molto spesso troviamo proprio segnalazioni, addirittura c'erano delle fotografie di persone che magari trovano un po' di tutto, addirittura anche dei capelli, trovano appunto dei vermi, della muffa, o il prodotto ha un odore strano, ha dei colori sospetti. Quindi questo è il primo caso. Questo è il primo caso, poi mi viene da chiedere, faccio l'avvocato del diavolo, come si fa a dimostrare che era effettivamente lì? Allora, il consiglio che noi diamo innanzitutto per questo caso è sempre quello di fotografare il prodotto, portarlo il prima possibile al negoziante e al limite cercare di avere anche un testimone, qualora che insomma se la cosa, certamente se è una confezione di pasta da 65 centesimi magari può essere più disturbo, però magari se uno compra, dico una stupidaggine, il caviale, certamente ha un significato diverso. Però in questo caso tutte le prove che una persona può cercare di organizzare per dimostrare insomma che il prodotto è avariato al momento dell'acquisto sono utili poter rincorrere. E ricordiamoci, Mirko, che in qualsiasi circostanza è sempre preferibile, magari non in questa che è magari più leggera, ma in altre quando si parla di intossicazione o di prodotti con degli oggetti contundenti anche o dei oggetti metallici, fare una segnalazione ai carabinieri o distretto sanitario, perché non è la prima volta che magari le autorità poi impongono a ritirare la merce che potrebbe risultare difettosa o avariata presente in vari scaffali di diversi punti vendita. E questo è il primo caso. Poi capita magari di qualche persona che va a mangiare in ristorante e rimane intossicata di varie cose, a volte anche questo lo leggiamo nei giornali. Qui in questo caso come ci si comporta? Ecco, anche qui, Mico, il fatto dell'intossicazione è una cosa che comunque bisogna dimostrare, quindi presumiamo che quando una persona rimane intossicata vada dal medico, vada in ospedale e si rilascia una diagnosi. Poi comunque con la diagnosi e comunque in presenza anche qua di magari testimoni o di materiale fotografico è sempre preferibile comunque in questo caso, oltre alla segnalazione come abbiamo detto, anche rivolgersi all'associazione dei consumatori, perché per esempio noi come Adico in queste situazioni qua cerchiamo sempre di evitare la possibilità di andare davanti ai giudici, ma di risolvere una cosa con una semplice insomma concertazione tra le parti che permetta insomma il riconoscimento del danno e del disagio che le persone insomma in questo caso hanno sostenuto, fermo restando che è sempre importante anche evidenziare il giorno e l'ora precisa, perché poi sai, bisogna sempre, se una persona si rivolge giorni dopo, ricondursi anche all'episodio in cui questo fenomeno si è manifestato. Certo, cose queste un po' più complicate da dimostrare, come anche il caso che uno magari a casa propria abbia mangiato del cibo avariato oppure ha ingerito dei corpi estranei che magari erano all'interno della confezione. Ecco, questo è un caso che è già capitato anche qua all'Adico di recente, che una persona proprio mangiando un cioccolatino ha trovato dentro un pezzo metallico, si è rotto in dente e in questo caso si è visto indennizzare di 1.500 euro la persona, che sostanzialmente gli hanno permesso di potersi sostenere le spese del dentista per sistemarsi il dente e farsi una capsula. Normalmente anche qua c'è sempre la necessità almeno di avere dei testimoni, perché chiaramente poi più si va indietro nei giorni rispetto a quello che è la data in cui si manifesta l'episodio, più diventa difficile manifestarlo. Certamente il consiglio principale è sempre quello di dover fondamentalmente segnalare il prima possibile a chi è responsabile l'accaduto e poi magari mandare un fax o una telefonata anche all'associazione dei consumatori, all'Adico, perché poi ribadisco che tutto quello che uno ha in più rispetto a quello che non ha diventa utile per cercare di risolvere la cosa bonariamente, come insomma cerchiamo sempre di fare, fermo restando che molte volte i esercenti hanno anche delle assicurazioni che in questo caso li mette proprio a riparo da quelle che possono essere iniziative o spiacevoli situazioni che tutti o ciascuno si può trovare in qualsiasi momento della propria vita. Eh sì, insomma, nella speranza che non capiti mai o che capiti davvero molto di rado, se dovesse succedere, insomma, avvisare subito, ovviamente farsi curare, intervenire se fossero cose gravi e poi segnalare subito l'accaduto alle ASL, alle forze dell'ordine se del caso, oppure a chi ci ha venduto quel prodotto, in modo da protestare subito, perché poi più tempo passa peggio è per il consumatore, oltre al danno magari c'è anche la beffa di non poter avere nessun risarcimento. Per ulteriori informazioni, dunque, associazionedifesaconsumatori.it, dove ci sono recapiti, numeri di telefono e anche gli sportelli online per chiedere consulenza. Grazie a Carlo Garofolini all'Adico, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.